Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Antonio di Crinale Lab, che è in collegamento telefonico con noi. Quindi ciao Antonio, benvenuto. Ciao, grazie mille. Ciao. E Antonio, io volevo chiederti innanzitutto, iniziando anche questa intervista, se hai voglia di raccontarci che cos'è Crinale Lab. Crinale Lab è molte cose insieme. Per noi è una sorta di quartiere generale che mette insieme un pochettino tutte le cose che abbiamo fatto negli anni, cioè suonare, incontrarci con altri musicisti e creare delle piccole residenze d'artista in cui creare cose nuove, facendo appunto incontrare persone diverse, dare un punto di incontro a musicisti in tour per il mondo, categoria di cui abbiamo per tanti anni fatto parte e di cui speriamo di far parte di nuovo da qui a poco, e soprattutto però creare una sorta di quartiere generale dove ci possa essere un dialogo costante fra le arti e dove all'occorrenza si possa registrare, noi principalmente musica, però poi gli spazi consentono di fare anche altre cose, però musica con strumenti di un certo tipo, quelli che piacciono a noi, che sono strumenti in gran parte antichi, che sono figli di un modo di pensare la musica più collettivo, suonare assieme, creare qualcosa insieme, ecco. Quindi uno studio di registrazione dove si produce musica e quindi anche uno spazio di incontro tra musiciste e musicisti. Ti chiedo anche se ci sono degli eventi organizzati da Crinale Lab e come è gestita, diciamo, un po' l'accesso al pubblico. Allora, noi praticamente abbiamo fatto un anno di prova fra di noi, diciamo, e l'abbiamo usato principalmente come studio di registrazione, però residenziale. Quindi chi viene poi sta lì anche a mangiare e a dormire, e si fanno dei piccoli blocchi di 4-5 giorni in cui si fa una sorta di immersione, di full immersion nel processo creativo e di registrazione. Rispetto a queste cose volevamo fare anche dei seminari, li faremo sicuramente nel 2022, come faremo degli incontri con personale anche tecnico rispetto alla musica nel 2022, anche un po' di formazione, per così dire, ospitando anche degli addetti ai lavori, eccetera. Al tempo stesso, per il discorso che ti facevo prima di un luogo dove le arti dialoghino, ci farà piacere, ci fa piacere organizzare degli open day in cui all'interno di una giornata, in quegli spazi, c'è anche la possibilità, non so, la presentazione di un libro, l'incontro con un artista, l'anteprima di un piccolo spettacolo teatrale o di un monologo. Stiamo cercando di creare un calendario un po' a slalom fra le regolamentazioni che, come sai meglio di me, si cambiano più spesso delle mutande ormai, in slalom fra le regolamentazioni. Cerchiamo di creare appunto qualcosa che restituisca questo senso di dialogo delle arti. Ecco, io rimarrei anche un po' su queste tue ultime parole che ci fanno capire che non è un semplice spazio dove si registra solamente della musica, ma è molto di più, e ti chiederei se hai voglia di approfondire un po' questo argomento e raccontarci un po' qual è la filosofia che sta dietro Crinale Lab e come è nato e come vorrà poi proseguire anche negli anni, sperando che chiaramente ci sia una lunga vita per questo spazio. Guarda, mi rendo conto sia una definizione difficile da dare, poi quando ci si è dentro è tutto molto chiaro. Io da musicista ho registrato in studi di registrazione buona parte del mondo, in svariati continenti. Le esperienze che mi ricordo più volentieri sono le esperienze dove il posto dove si registrava era anche il posto dove si mangiava, si dormiva, diventava una sorta di casa artistica in cui magari un giorno passava anche un altro gruppo che doveva fare delle cose, si iniziava a parlare, oppure passava un altro artista che era amico del fonico, che gli aveva portato un quadro, non so, e allora si parlava di questa cosa. Io ho quasi 50 anni, sono figlio di un'idea del fare musica che, nel pieno rispetto dei metodi e delle tecnologie che ovviamente evolvono, il modo che mi piace di fare musica è un modo dove registrare sia un'esperienza di incontro, di scontro anche, ma comunque essere all'interno di un ambiente creativo che diventi come un elemento aggiunto del gruppo. Ecco, noi siamo il contrario dello studio di registrazione asettico, dove vai già sapendo per filo e per segno tutto quello che succede, ci sta il tempo necessario per spingere rec e registrare la canzone. Quello noi vorremmo che fosse, anche perché è un posto bellissimo in cima a una collina, un posto dove stare qualche giorno e dove fare dialogare quello che si vuol fare, la canzone che vogliamo registrare, il disco che vogliamo preparare, con quello che succede e con gli incontri che succedono in quegli spazi. È un'idea di creazione artistica residenziale che magari un po' una volta era più popolare, poi anche per questione di costi e di tanto è diventata un pochettino più asettica. Noi crediamo di poterla rilanciare con la rete che abbiamo creato in questi tanti anni di festival e di nostra carriera musicale. L'ultima domanda, questa più operativa, più pratica, quali sono le pagine da seguire per rimanere connessi e connesse con Crinale Lab e quali sono i contatti per raggiungervi? Allora, direi che crinalelab.com c'è tutto, compresi i link alle pagine social. Noi anche la dimensione social la viviamo, diciamo, con un certo distacco filosofico, perché crediamo alla compenetrazione dei corpi all'interno dello spazio più che degli hashtag o di altro, però sicuramente su Crinale Lab, direi crinalelab.com, si trova poi tutto quello che serve, compresi i numeri di telefono. Perfetto, Antonio, allora ancora grazie e grazie di questa chiacchierata e speriamo di risentirci presto, magari per altri appuntamenti e prossimi eventi di Crinale Lab. Grazie. Assolutamente, passateci a trovare. Il Crinale, anche il Crinale fra epoche diverse, fra territori diversi, fra sensibilità diverse, è un luogo di incontro e i luoghi di incontro sono una cosa di cui c'è un gran bisogno in questo momento. Grazie mille. Grazie a te.